Davide, inoltre, portava un efod di lino. Tutto Israele accompagnava il trasporto dell'arca dell'alleanza del Signore con grida al suono dei corni, con trombe e cembali, facendo risuonare arpe e cetre. Quando l'arca dell'alleanza del Signore giunse nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che danzava e saltava e lo disprezzò in cuor suo.